ad alta voce. Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine. 24esima puntata. Luca picchiò a Casa Cannavale. Il portiere Guercio, che lo aveva visto molte volte, aprì il portone senza fare storie. Luca entrò e s'avviò rapidamente verso la scala. Il Guercio tentò di raggiungerlo e gli disse che la signora non c'era. «Va bene», disse freddamente Luca, voltandosi appena. «Devo parlare con l'avvocato». Andò ad aprirgli Elettra. La ragazza gli fece un sorriso amichevole. «Vorrei parlare con Don Enrico», disse Luca. «Con Don Enrico?» rispose Elettra meravigliata. «E perché volete parlare con Don Enrico?» «Ho bisogno di sapere l'indirizzo della signora». «E dall'avvocato lo volete sapere?» disse Elettra ridendo. «L'avvocato è di là con Barberi. Sono ubriachi, tutti e due, da questa notte, e staranno certamente dormendo. E poi... io sono sicura che l'avvocato non sa l'indirizzo della moglie». «Ma qualcuno lo saprà dove si trova quella donna», disse Luca con voce sorda. Elettra lo guardò un attimo perplessa, poi disse: «Io so la storia delle terre, me l'ha detta mio padre. Hanno ingannato i contadini di Morutri, ma non si può fare nulla. Io non ho tempo da perdere. So io quello che si può fare, ma devo conoscere quell'indirizzo». Elettra gli si avvicinò con aria circospetta e gli disse sottovoce: «Scrive soltanto alla sua cameriera, ma non vi dirà nulla». «Parlerà», disse Luca. «Dimmi dove posso trovarla». Elettra era esitante. Si capiva che era combattuta tra il desiderio di aiutare Luca e la paura delle conseguenze del suo gesto. A un tratto disse decisamente, dandogli del tu: «Vieni, cammina in punta di piedi. Non far rumore. Devi farmi una promessa: non dirle che mi hai visto». Lo precedette camminando con passo leggero. Attraversarono la biblioteca. Dallo studio attiguo Luca sentì uno scoppio di risa. «Si sono svegliati, ma devono essere ancora sbronzi. Da quando la moglie lo ha rispedito indietro, fa tutti i giorni così». Luca riconobbe la porta dell'appartamento di Laura e stava per fermarsi. «No, qui», disse Elettra con un soffio. «Quella in fondo». E si allontanò a passo rapido. Luca girò la maniglia della porta ed entrò. Linda, vedendolo, balzò in piedi e gli disse: «Lei? Che fa qui, lei? Che vuole?» La ragazza s'era alzata dal divano in cui era semisdraiata. Indossava una vestaglia della padrona ed era perfettamente pettinata e truccata. Su un tavolino aveva delle riviste illustrate e un bricco pieno di caffè. «Sono venuto per sapere l'indirizzo della signora Cannavale». «Da me?» fece Linda con ipocrita meraviglia. «Che c'entro io?» «Tu sei la sola che lo conosce, sbrigati, non ho tempo da perdere». La ragazza, sentendosi dare del tu, con quell'aria decisa, sprezzante, contrasse la fronte e gli disse a labbra strette: «Lei se ne deve andare, altrimenti mi metto a urlare». Luca fece qualche passo verso la ragazza, con le mani in tasca, guardandola fissa negli occhi. Linda arretrò, ma Luca si avvicinava incalzandola senza parlare. La ragazza sentì a un tratto il suo respiro corto e gli vide il palpito delle narici. Incominciò ad aver paura. «Tu sai perché mi serve quell'indirizzo», disse Luca, «e sai che me lo devi dare». Linda tentò un agile scatto per sottrarsi all'assedio di Luca, ma il giovane la agguantò per una spalla con una stretta attanaglia. Le disse lento, con voce roca: «Tu sai che non ti lascerò uscire, puttana». Luca aveva detto, rigirandosi tra le mani la busta con l'indirizzo di Laura: «È a Sanremo». Gesualdo fece: Non tornerà. È un posto dove si sta bene, quello. Deve tornare, fece Luca. Vedi, il tuo errore è in questo, disse Gesualdo. Tu supponi che la signora Cannavale se la sia filata per paura di dover rispondere della sua promessa. Sei ingenuo, Luca. Io sono sicuro che non ci pensa più. È andata a Sanremo perché le faceva comodo di andare a Sanremo. Io faccio quello che vuoi, cerco anche Don Giacomo Fontana, ma non c'è. Se fosse tornato in questi giorni, lo saprei. E poi, a che ti potrebbe servire? Non si può far nulla, Luca. Gesualdo si era allontanato tra i vicoli. Luca si era diretto a casa dello zio. Due ore dopo, lui e Filoteo Natalizio erano sul trenino diretti alla stazione del Frassino. Luca avrebbe voluto attraversare le terre, ma lo zio gli aveva fatto notare che, con quel tempo, i viottoli della tenuta dovevano essere tutto un pantano. «I contadini li farai avvisare quando tornano dalla campagna», disse Filoteo. «Avrai tempo di riposarti un'ora, salutare i tuoi. Hai passato la notte senza dormire e da 24 ore non mangi». Filoteo, in un fagottino, aveva messo qualche cosa da mangiare, ma Luca si rifiutò di toccare cibo. Fumava una sigaretta dietro l'altra e aveva il viso ostinatamente rivolto alla campagna, velata dall'acquerugiola persistente che cadeva da una settimana. Il trenino scendeva a valle stridendo. Si fermava ogni 2 o 3 chilometri. Salivano contadini intabarrati, carichi di fagotti. Appena entrati, aprivano il tabarro e accendevano le corte pipe di coccio, ingrommate di tartaro che gorgogliavano come pentole in bollore. Sputavano la loro saliva giallastra o si spurgavano rumorosamente, aspirando il muco dal naso nella gola. Parlavano raro, ma a voce alta, come se si chiamassero da distanze sterminate. «Sono di Pesco», disse lo zio. «Non vedo nessuno di Morutri o di Pietrafulca. Non ne ho visto neanche a Calena gente di Morutri». Filoteo cercava di discorrere per trarre il nipote dal suo torpore doloroso, ma Luca taceva. Quando lo zio gli aveva proposto di accompagnarlo a Morutri, aveva avuto un breve sorriso affettuoso. Il vecchio aveva detto: tu potevi supporre che io ti lasciassi andare solo? Devo notificare gli sfratti ai contadini di Morutri. È la legge. E aveva strizzato l'occhio con infantile malizia. Luca aveva avuto per un attimo un tremito di tenerezza in mezzo al petto ed era stato per abbracciarlo. Non sapeva quello che lo zio avrebbe fatto per lui. Gli aveva restituito le carte degli sfratti e l'elenco dei contadini ai quali doveva essere fatta la proposta per il contratto di affitto. Lo zio aveva cacciato le carte nella sua bisunta, slabbrata borsa di cuoio. Percorsero il tratto di mulattiera tra le masserie del Frassino e Morutri a passo rapido. Per il primo miglio non incontrarono anima viva. Ma quando furono giunti ai margini delle terre, vennero loro incontro Giovanni Cirella e Tommaso Saccoccia. I due contadini avevano gridato dall'alto di un poggio: «Ehi, Luca!» E Luca si era fermato per attenderli. «Stavi a Napoli, Luca? Ma noi dicevamo che saresti tornato. Hanno detto che ci mandano via dalle terre. Anche noi, che abbiamo in affitto queste di Santa Maria in Civita da 50 anni, dobbiamo andar via. Se vogliamo terre, dobbiamo prendere le pietraie di Scivalunga. Che dobbiamo fare, Luca?» «Venite stasera al fondaco di San Carlo. Avvisate tutti quelli che vedete. Dovete venire tutti. C'è la luce a Morutri?» «Luce», fece Tommaso Saccoccia. «La luce la rivedremo a Natale, se piacerà al Signore. Il canale della Gravellina si è allagato. L'acqua ha portato via i gabbioni. La corrente non arriva più alla cascata. Fanno le cose con lo sputo tutti gli anni per non pagare le giornate agli operai. ma la luce se la fanno pagare anche quando vai col tizzone. Portate le lanterne, disse Luca. Le portiamo. Devono venire anche le donne? Anche le donne, venite tutti. Arrivarono a Morutri nel tardo pomeriggio. Quando comparvero all'imbocco della strada principale, i ragazzi uscivano dalla scuola a gruppi. I maschi, avvolti in mantelline militari sbrindellate, diventate cineree per l'uso, le bambine con addosso i pannucci a quadri rossi e neri. E sguazzavano nella fanghiglia con i piedi dentro scarpe enormi, fradice d'acqua. E due maestre venivano dietro, infagottate in due cappotti grigi, con una pellegrina sulle spalle, saltellando nel fango per evitare le pozzanghere. Carluccio, Gianni e Roberto andò incontro a Luca. Un altro gruppo di ragazzi si diresse verso la casa dei Marano per annunziare il suo arrivo. Carluccio disse: «Io l'ho capito che tornavi. Ti volevo dire che poco fa è passato davanti alla scuola Michelino Lalli, che veniva da Macchia Loreto. Mi ha detto che hai incontrato 3 carabinieri». Luca fece una carezza a Carluccio e gli disse: «Senti, fammi un piacere. Dillo anche ai tuoi compagni. Più tardi andate in tutte le case e avvertite che uomini e donne si devono trovare a 1 ora di notte al fondaco di San Carlo». «Ci andiamo», disse Carluccio. «E vengono anche Pasqualino, Guido, Raffaele, Minguccio e Stefano». «Io mi faccio dare la tromba dal banditore», disse Stefano Cirella. «È una cornetta, ma io la so suonare». I ragazzi si sbandarono e Luca continuò la sua strada. Trovò Immacolata Marano che lo attendeva sull'uscio. Gli andò incontro e gli buttò le braccia al collo piangendo. «Non dovevi tornare, Luca, non dovevi tornare. Vattene, Luca, torna indietro. Michele ti accompagna con l'asino alla stazione di Pesco. M'hanno detto che c'è un treno che passa di notte». Luca si svincolò dalle braccia della madre e andò a sedersi accanto al camino. Immacolata prese per le mani Filoteo e lo condusse in fondo alla cucina e parlottò con lui per qualche attimo a voce bassissima. Tornò indietro dicendo: «Sei pazzo anche tu». Intorno a Luca avevano fatto circolo tutti i Marano. «Luca dice bene», affermò Seppe. «Noi ci riuniamo e ognuno parla. Faremo tutte le cose con l'accordo. Vedi, Filoteo ha gli sfratti da 5 giorni e non ha fatto nulla. Come disse l'altra volta quando venne? Faccio un telegramma a Luca e parliamo con lui. Ora Luca è ritornato e dobbiamo parlare». «Ha ragione Luca, Immacolata. Queste sono cose da uomini». C'erano 3 lanterne sulla tavola al fondaco di San Carlo. Luca parlava in piedi e la luce lo illuminava di sotto in su, facendo più pallido e smunto il suo viso. Le donne si erano riunite fuori e avevano accanto i loro ragazzi. Tutta la piazzetta antistante al fondaco nereggiava di corpi illuminati attratti dalle lanterne cieche. Luca parlava con voce ferma, lentamente. «Io sono tornato per dirvi che ci hanno tradito. Mi avevano fatto una promessa e io ho fatto una promessa a voi. Noi abbiamo bisogno delle terre del sacramento. Sono il nostro pane. Ci hanno promesso di darcele e noi le vogliamo. Voi le avete lavorate, avete fatto i maggesi scavando la gramigna e le pietre. Adesso, con le terre buone, ci vogliono fare una cosa che frutti molto danaro. La tenuta è in mano a 10 persone che non hanno mai visto una zappa e vogliono mangiarsi il vostro sudore. Hanno mandato gli sfratti anche per quelli che avevano già il contratto di affitto, perché l'affitto antico vogliono moltiplicarlo per 10 o per 20. Per le sassaie di Scivalunga vogliono darvi la terra con un tomolo di grano per tomolo di terra. Ma le pietre non danno grano. Noi invece vogliamo le terre buone, quelle che danno pane, e ce le devono dare a censo, come avevano promesso. È venuto Filoteo natalizio per notificarvi gli sfratti, ma domani mattina troverà tutte le porte di Morutri chiuse, perché noi andremo a seminare le terre del sacramento. Ci rimarremo fino a quando non avremo avuto il contratto di enfiteusi, come era stato promesso. Dicono che noi non abbiamo le prove della promessa, ma voi sapete che avevate già avuto assegnata la vostra parte. Ingegneri che hanno fatto le piante possono fare da testimoni. Queste sono le prove. Anche se noi non abbiamo una carta, l'istrumento, noi abbiamo dato il nostro lavoro in cambio della parola. Ci hanno messo in mezzo finanche Gesù Cristo per farvi lavorare. Hanno chiamato finanche il prete per far ribenedire la cappella e hanno ingannato noi e Cristo. Parlò Marco Cece. Va bene, Luca. Siamo tutti d'accordo. Vogliamo seminare. Ma non abbiamo il seme. Tu sai che abbiamo grano fino a febbraio, a marzo, e nessuno di noi ha riportato denaro dalla mietitura. Seminate lo stesso, disse Luca. A febbraio troveremo il pane. Andremo domani mattina. Restano solo le vecchie e le donne con i bambini lattanti. Bisognerà rimanere sulle terre notte e giorno per aspettare che ci facciano giustizia. Io ho mandato un amico a spedire dei telegrammi. Ho fatto avvertire donna Laura Cannavale e la banca. Se noi siamo forti e uniti, dovranno ascoltarci. Non vogliamo fare male a nessuno, vogliamo solo lavorare. Io dico che va bene, fece Antonio Antonacci. Noi abbiamo fatto la guerra e c'è una legge che aiuta i combattenti. Ci sono stati 40 morti a Morutri sul fronte. Quelli che sono rimasti non devono morire di fame. Marco Cece e Antonacci erano vicini a Luca e parlavano rivolti ai loro compaesani. I più prossimi raccoglievano le loro parole e le trasmettevano ai gruppi più lontani. Le frasi navigavano nell'oscurità sulle teste e si perdevano in un rumorio confuso. Facevano il cammino a ritroso e si incrociavano con altre parole. Ogni tanto una voce dal fondo raccoglieva il mormorio delle donne che erano rimaste sulla piazza e il pensiero comune diventava una frase chiara che arrivava alle prime file degli uomini. A un tratto il mormorio cambiò direzione. Ai margini della calca c'era stato un movimento. A piccole onde veloci la notizia arrivò fino al gruppo che stava intorno a Luca. «Ci sono i carabinieri». La folla si era aperta e un brigadiere, seguito da due militi, avanzava facendosi largo tra l'onda dei corpi che si richiudeva alle loro spalle. Il brigadiere, raggiunto il tavolo, chiese «Chi di voi è Luca Marano?» «Sono io», rispose Luca. «Siete voi che avete riunito questa folla qui?» «Sì, sono stato io». «E che cosa volete fare?» «Niente, discorrevamo tra noi». «Questo è un assembramento. Gli assembramenti sono proibiti. Dovevate chiedere il permesso per organizzarlo. Abbiamo disposizioni severissime. Voi mi dovete spiegare che cosa volete veramente fare». «Probabilmente», disse Luca con calma, «voi lo sapete già. Ve lo avranno detto quei farabutti che vi hanno mandato qui». «Dovete venire con me», disse il brigadiere. Filoteo natalizio, che era alle spalle di Luca, con una mossa rapida si frappose tra il brigadiere e il nipote. «Che cosa vuol fare lei, brigadiere? Arrestare Luca Marano?» disse guardando con battagliera fierezza il milite. «Arrestare? Chi ha parlato di arrestare? È una convocazione». «Una convocazione con le manette. Le convocazioni si cambiano in fermo, il fermo in arresto. Lei mi vuole infinocchiare, brigadiere, ma non è facile infinocchiare Filoteo natalizio». «Voi ostacolate il corso della legge», disse il brigadiere con stizza. «Io ostacolo? Io sono per la legge. Io ero venuto qui per notificare gli sfratti decisi dalla legge, per moderare gli animi, per ricondurli a una visione obiettiva, dico obiettiva. Lei non si domanda, brigadiere, se è giusto quello che fa? Lei esegue. Io invece me lo domando. Mi rispondo di no e non eseguo. Cercò a furia nella sua sudicia borsa il fascio di carte che vi aveva messo al mattino e lo fece a brani, soffiando per lo sforzo. Disse 3 o 4 volte ancora: «Io non eseguo! Io non eseguo!» Il brigadiere fece un passo avanti e tentò di mettere le mani addosso a Luca Marano. Ma qualcuno doveva avergli dato un colpo nella piegatura delle ginocchia, perché il brigadiere traballò. Una mano a tenaglia gli abbrancò la caviglia e il brigadiere cadde con la faccia a terra. I due militi fecero per imbracciare l'arma, ma furono avvinghiati alle spalle. Nella penombra, i corpi dei 3 militi furono come succhiati dalla folla. Si udì un respirare roco, affannato, qualche grido soffocato e dopo qualche minuto i 3 uomini ritornarono, scaraventati da 20 braccia al centro della stanza. Erano disarmati, con le divise a brani, scarruffati e pesti. Il circolo intorno si era richiuso compatto, come un muro. Marco Cece disse, rivolto agli uomini: «Adesso io parlo a quelli che sono stati con me nel 98. Voi ricordate come facemmo allora? Legateli bene e portateli alla cavatella, ma non li lasciate all'aperto, perché piove. Metteteli dentro un pagliaio, non gli fate male. Sono anche loro figli di mamma». Si aprì un varco nella folla e i carabinieri scomparvero ancora una volta nel gorgo, sospinti da 100 mani. Luca aveva guardato la rapida scena ed era rimasto immobile. Quando Marco Cece ebbe finito, disse: «Io penso che non possiamo aspettare fino a domani mattina. Bisogna partire subito. Se alla caserma di Calena non vedono tornare il brigadiere, mandano dei rinforzi, circondano il paese e non ci fanno più uscire. Io dico che bisogna andare subito». La parola «subito» ondeggiò sulle teste. Fu rimormorata da 1000 voci. Sostò per qualche attimo nei gruppi di uomini e di donne chiusi fino agli occhi nei mantelli e ritornò da dove era partita, gravida di tutti i consensi. «Portate tutto con voi, portate da mangiare, portate tutti gli strumenti di lavoro, la calce, il solfato di rame. Forse dovremo rimanere alcuni giorni sulle terre». «Portate anche le armi!» gridò Antonacci. «Verranno i rinforzi, verranno i soldati». «Ma non abbiamo armi! Dove sono le armi?» gridò una voce. «Sono tutte sotto la croce di Cristo. Ci hanno fatto seppellire le armi». «Andiamo a scavare la fossa sotto la croce», si udì gridare dal fondo buio della stanza. Dalla piazza partì un tumultuare confuso di voci. Poi una donna gridò: «Non andate a scavare!» E poi ancora un grido: «Sacrilegio! Non toccate la croce, correrà il sangue!» «Sono arrugginite le armi!» gridò Luca. «Fermi! Lasciate stare le armi!» Ma la gente usciva dalla stanza gridando, sospingendosi, accavallandosi, componendosi in gruppi frenetici e poi spargendosi ancora. Le donne si erano mescolate agli uomini, tentando di trattenerli. Luca afferrò le lanterne che erano sul tavolo e, seguito da Marco Cece, riuscì a fendere la calca e a raggiungere l'imbocco della strada che portava verso la Costa Solente. Alzò la lanterna sul gruppo più prossimo e gridò: «Fermi! Che cosa potete fare con dei fucili arrugginiti? Con delle pistole scariche? Noi non dobbiamo fare la guerra, dobbiamo solo lavorare e aspettare che ci diano ragione. No, dobbiamo andare armati. Se ci sparano, spareremo. Romperemo il canale, allagheremo le terre, bruceremo le masserie», gridò una voce. «No, non stiamo più con Cristo, stiamo col diavolo». Ma accanto a Luca c'erano ormai Michele e Seppe Marano, Marco Cece e 2 dei Cirella per sbarrare la strada.